Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Ovviamente anche noi partiamo, apriamo da ciò che accade al Senato, dunque nell'attesa del voto, e partiamo da Enrico Letta. Questa mattina nel discorso ha detto tra l'altro: il nostro obiettivo è l'aumento del PIL all'1% nel 2014 e vuole essere superiore per gli anni successivi. Secondo il Premier, la legge di stabilità è l'occasione per mostrare al Paese che possiamo farlo, ma non vogliamo arretrare di un millimetro nel processo di risanamento della finanza pubblica, che ha consentito, grazie ai sacrifici di tutti gli italiani, all'azione degli esecutivi precedenti e di questo governo, di uscire dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. E a proposito di paesi che affrontano dunque la difficile uscita da questa fase recessiva, oggi facciamo il punto sull'Irlanda, la tigre celtica che ha smesso di ruggire e ora cerca una via per una crescita sostenibile. Taglia le spese, tasse, privatizzazioni, ricapitalizzazione delle banche, medicine amare delle drastiche cure imposte dalla Troica negli anni ai pazienti in Irlanda, Portogallo, Grecia, Spagna, Cipro, temute da sempre anche in Italia. L'Irlanda, la prima a entrare in cura, sarà probabilmente dimessa in questo 2013, ma è lungi dal tornare a ruggire, sottolinea a Euronet Plus Donald Donovan, docente, membro del Consiglio Consultivo Fiscale Irlandese e autore di The Fall of the Celtic Tiger, la caduta della tigre celtica. Abbiamo ancora diversa strada da fare, dice. La disoccupazione è ancora al 14%, tra i giovani anche di più, arriva quasi al 30%. Finché non avremo una crescita sostenibile, e ci vorrà tempo, non diminuirà. Dello stesso avviso Jolt Darvas, economista del centro studi Bruegel di Bruxelles. L'Irlanda non ha una crescita economica realmente solida. Anche se il PIL cresce, il prodotto nazionale lordo è stagnante o addirittura in declino. Significa che se dal PIL irlandese togliamo il valore del contributo produttivo dei lavoratori e delle imprese stranieri e mettiamo quello che cittadini ed imprese irlandesi effettuano fuori dai confini della loro patria, i numeri non sono buoni. L'Irlanda da sola ancora non sta in piedi. Gli economisti certificano quello che gli universitari irlandesi sanno già bene, tant'è che secondo l'Ocse scappano dal paese il 17,4% di titolari di diplomi, lauree e dottorati di ricerca. In Italia i cervelli in fuga sono il 7,9%. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Questa è l'Irlanda, poi c'è il Regno Unito. Questa mattina David Cameron ha detto durante il congresso di Manchester del suo partito, ha confermato la volontà di puntare al referendum. Dentro o fuori dall'Unione Europea decideranno i britannici. La gente, ha detto Cameron, avrà la possibilità di esprimere la propria opinione in un referendum. E ora in conclusione una notizia che ci riporta a un concorso che si è appena concluso. Efficienza energetica, comfort e costi sostenuti. Un progetto edilizio di Lodi vince con questa motivazione il concorso Un mondo come piace a te, realizzato dalla Commissione Europea nella categoria Migliore idea sul clima in Italia. Al microfono di Laura Bettini sentiamo Paolo Borsatti, socio e responsabile della comunicazione della cooperativa Santa Francesca Cabrini 2, che ha ideato e realizzato il progetto. Molto, molto soddisfatti. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Stiamo parlando di appartamenti ad altissima efficienza energetica, per cui è un risparmio diretto, immediato. E anche avendo industrializzato il processo di costruzione, possiamo dire che i costi di acquisto sono decisamente inferiori a quelli che sono le medie, io posso dire, del mercato di Lodi. Bisogna avere due accortezze: l'accortezza di studiare approfonditamente materiali e modi di costruzione, e la seconda, ingegnerizzare per bene tutto questo processo. Ma di risparmio energetico nell'edilizia è importante non solo parlarne, ma realizzare fatti concreti. Anzi, ci permettiamo di invitare tutti gli ascoltatori al 9 novembre all'Open Day che abbiamo organizzato nel cantiere di Lodi. Bene, con questo è tutto per Europa 24, che torna come sempre domani, poco dopo le 14. Un saluto. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.